Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. Sentite che voce squillante. No, scherzo, ma visto settimana scorsa proprio non ce la potevo fare, oggi un pochino di più, è sempre un po' rauca, eh? È una tracheite, comunque lo dico perché sono arrivati molti messaggi, grazie, tutti i consigli. Io avrei dovuto, in poche parole, non so, comprare non so quanti chili di miele, camomille, cose calde, di tutto mi hanno dato, la propoli, non serve a niente, ci vuole un po' di pazienza e un po' di caldo e poi tutto va. A parte questo, anche oggi giochiamo come sempre con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Dovete risolvere il mistero basandovi sugli indizi musicali che vi farò ascoltare, e il più bravo, cioè chi userà meno indizi, si porterà a casa i 1000 euro. Poi ovviamente più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà, e il primo indizio è questo. Sì, lo so, non è facile, però insomma, in fondo è il primo indizio. Allora, la risposta può essere come sempre o un personaggio, oppure una notizia della settimana o qualcosa di particolarmente conosciuto. Il numero per prenotarvi, potete farlo anche subito, 800 24 00 24. La puntata di oggi dovrà cercare di coinvolgervi il più possibile, perché giocheremo, impariamo giocando, così si intitola, perché la settimana prossima a Milano accadrà una cosa della quale parleremo e che ci ha dato lo spunto per parlare di gioco, insomma il gioco che ci serve per crescere, per imparare sicuramente, ma non soltanto quando siamo bambini, si può giocare, anzi si deve giocare anche quando siamo adulti, per migliorare le nostre conoscenze, perché molto spesso non conosciamo abbastanza. Anzi, sempre non conosciamo abbastanza, e più sappiamo e meglio stiamo, almeno per me è così, ma penso anche per voi. Il numero per i vostri sms 349 238 6666, e visto che parliamo di gioco partiamo da Bennato. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà. Noi facciamo in modo invece che sia vera completamente. Allora iniziamo il riposo del guerriero con il primo ospite, che è Matteo Bonassi. Ciao Matteo, buongiorno a tutti. Direttore di Game Informer, perché noi oggi partiremo proprio dai videogiochi, ma c'è un motivo. Il motivo, uno tra i tanti motivi, è questo. Vi presento infatti un'altra ospite, che è Talita Malagò, che è segretario AESVI, che è qui con noi. Ciao Talita, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora Talita, dovresti raccontarci che cosa accadrà a Milano la settimana prossima, da venerdì. Allora, a Milano succede una cosa molto importante, arriva Games Week, che è il primo evento dedicato ai consumatori sui videogiochi in Italia, che si svolgerà presso il MICO di Fiera Milano City dal 4 al 6 novembre. Che cos'è Games Week? È un grande parco giochi tecnologico nel quale i visitatori potranno provare le novità in anteprima, incontrare gli sviluppatori dei videogiochi, giocare con le celebrities e sfidarsi in tornei con altri giocatori. Quindi, in una parola, essere protagonisti di un'esperienza di intrattenimento a 360 gradi. L'evento è aperto a tutti, quindi non soltanto per i videogiocatori appassionati, ma anche per le famiglie, quindi tutti, davvero tutti, dai bambini ai nonni, potranno trovare un modo divertente per passare il loro weekend. Ecco, allora, Talita, visto che voi raccogliete gli sviluppatori, gli editori di videogiochi in Italia, volevo capire il videogioco come si sta muovendo, cioè verso chi sta andando, se davvero sta entrando nelle famiglie, se puoi farmi anche dei numeri, per esempio. Certo, allora diciamo che il mercato dei videogiochi si rivolge a due target principali. Da un lato c'è lo zoccolo duro del nostro settore, che sono i videogiocatori appassionati, i quali non vanno mai delusi. Quindi, ecco, che età hanno adesso i videogiocatori appassionati? Visto che fino a qualche anno fa erano giovani, ma credo che l'età si stia alzando, cioè arrivi anche a superare i 30. Guardi, l'età media dei videogiocatori in Italia oggi è intorno ai 30 anni, negli Stati Uniti è intorno ai 35, quindi comunque si sta parecchio alzando. L'altro però target a cui noi ci rivolgiamo sono sicuramente le famiglie, o forse diciamo con un termine che spesso si usa nel nostro settore, i casual gamers, quindi i videogiocatori più occasionali che non fanno del videogioco il loro intrattenimento preferito, ma usano giocare in quelli che sono i loro momenti di tempo libero. Certo, quindi... proprio come una volta si faceva magari intorno al tabellone del gioco, no? Lanciando i dadi, che voglio dire non è morto quel tipo di gioco, anzi ne parleremo anche oggi, però il videogioco un po' l'ha sostituito o comunque lo sta integrando. Talita, resta al telefono per cortesia, gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo. Il riposo del guerriero. Con Talita Malagò, segretario di AESVIN, stiamo parlando del Games Week, questa grande manifestazione aperta al mondo dei videogiochi che si terrà a Milano da venerdì a domenica prossima. Allora Talita, io volevo chiederti il pregiudizio, quanto ce n'è ancora in Italia verso il videogioco? L'Italia è sicuramente uno dei paesi europei in cui l'accettazione del videogioco è un po' più lenta, ma questo sicuramente negli ultimi anni è molto migliorato, se non altro perché c'è stato un vero e proprio mutamento nei consumi delle famiglie italiane e oggi il videogioco è presente, la console per videogiochi è presente in 2 famiglie su 3 e sono 4 gli italiani su 10 che giocano o abitualmente o occasionalmente, quindi man mano che il videogioco si fa strada nelle abitudini di consumo e direi anche nello stile di vita delle persone, man mano i pregiudizi vengono meno, quindi si tratta semplicemente di un percorso che avrà una sua durata, però noi siamo fiduciosi che riuscirà a risolversi in modo positivo. Cosa si può fare secondo te per cercare di eliminarli del tutto quasi? Ma io credo che sia stato fatto molto e sia ancora da fare molto per questo. Innanzitutto manifestazioni come Games Week possono aiutare in questo senso, perché danno la possibilità veramente a tutti di vedere che cos'è il mondo dei videogiochi al di là di quelli che possono essere i pregiudizi di chi magari non li conosce. Poi sicuramente la nostra associazione si è impegnata molto e continuerà ad impegnarsi sul fronte istituzionale. Noi ogni anno organizziamo il Games Forum alla Camera dei Deputati in collaborazione con l'onorevole Antonio Palmieri della Commissione Cultura, in cui portiamo rappresentanti dell'industria, istituzioni e stakeholder a parlare e a discutere intorno all'industria dei videogiochi. Quindi i 2 anni passati ci siamo dedicati al tema della protezione dei minori e dei giochi nel loro rapporto con l'educazione, quest'anno alla fine di novembre ci occuperemo invece del tema dello sviluppo dell'industria a livello nazionale, quindi si tratta di un appuntamento che mira proprio a creare una consapevolezza più diffusa a livello istituzionale di quella che è anche l'importanza della nostra industria. Ecco, mi sembra che Giovanardi, se non erro, l'anno scorso aveva confuso i videogiochi con i giochi d'azzardo. Ma io credo che questo sia una confusione che può essere anche abbastanza diffusa, nel senso che chi non conosce il settore, chi non usa i videogiochi può fare sicuramente confusione tra videogiochi di intrattenimento e giochi d'azzardo. È sicuramente nostro compito quello di fare in modo che queste confusioni possano essere ridotte e venire meno nel futuro. Ecco, magari poi il compito di tutti è anche di informarsi in generale, no? Dico. Certo. Senti, allora Talita, l'evento è gratuito? Si paga qualcosa? Come funziona? Allora, l'evento prevede un biglietto d'ingresso che costa 10 euro intero, 5 ridotto, i bambini sotto i 6 anni non pagano e poi sono previste delle agevolazioni per le famiglie. Una famiglia di 3 persone paga 18 euro, una di 4 22. Inoltre, questo è importantissimo, per chi acquista il biglietto online sul circuito Ticket One in prevendita è possibile avere uno sconto del 30% sul prezzo d'ingresso, quindi ci sono ancora pochi giorni per accaparrarsi un biglietto in prevendita, quindi contiamo che lo possiate fare. Allora, sarà un successo sicuramente, comunque una bellissima iniziativa che spero poi riesca a girare anche l'Italia. Io credo che parta da Milano, ma poi il vostro sforzo credo quello di portare Games Week anche in altre città. Ma speriamo di poterlo fare. Sicuramente è importante partire da un punto. Abbiamo scelto Milano non a caso perché comunque un po' anche il centro dell'industria, tutti i grandi player del settore si muovono intorno a quest'area. Poi insomma abbiamo pensato che Milano poteva essere una location in linea anche perché ospita alcune grandi manifestazioni come la Design Week o la Fashion Week, quindi perché no la Games Week a Milano, proprio nel solco di questa tradizione. Certo, va bene, sarà un successo davvero, ma ci vedremo poi là. Grazie Talita, buona giornata. Grazie a voi, buona ciao, giornata. Grazie. Allora Matteo, direttore di Game Informer, parliamo di videogiochi, cominciamo da lì. Videogiochi, io volevo aprire una parentesi sul lavoro, perché in effetti offrono moltissime opportunità di lavoro in questo momento. Diciamo di sì, bisogna vedere in che ambito di ecco appunto, quali sono lavoro, gli ambiti, sì. Per esempio, non so, musicisti, doppiatori. Beh, in Italia, vabbè, allora magari una cosa interessante che magari non tutti sanno è che in Italia abbiamo delle aziende che si occupano di localizzare i videogiochi, quindi quando voi comprate un videogioco dentro potete scegliere in che lingua giocarlo, e questo lavoro viene fatto proprio da aziende anche italiane con successo in tutto il mondo, quindi localizzate in Italia per altri paesi. Una di queste, non so se posso citarla, ma è Binari Sonori, un'azienda certo. Che sta proprio qui a Milano. Questo è un esempio. Nell'ambito dello sviluppo vero e proprio abbiamo una realtà importante che si chiama Milestone, che ha avuto successo in passato soprattutto con alcuni simulatori di guida, eccetera. E su quel versante credo che ci sia ancora molto da fare, ma associazioni come ASVI, che abbiamo appena sentito, si sta proprio occupando di accorpare tutti gli sviluppatori e dare anche manforte a questo tipo di attività. Poi abbiamo, chiaramente, se vogliamo parlare proprio di lavoro in generale, anche una serie di siti internet specializzati, di riviste come la nostra, in cui se un appassionato può sicuramente mettere a frutto, non dico quello che ha studiato perché si parla di videogiochi, ma comunque la sua passione per farla diventare un lavoro. Quindi... Beh, in fondo scrivere di videogiochi significa innanzitutto anche saper scrivere, perché un giornalista si può specializzare in un ambito, il videogioco è uno di questi. Per di più oggi il videogioco richiede anche una conoscenza, devo dire, non dico profondissima, però una buona conoscenza del mondo del cinema e del mondo della musica, francamente, se vuoi, credo, analizzare un gioco sotto tutti i suoi aspetti, perché ormai un videogioco è un insieme veramente di arti in questo senso. Ecco, tu che fai il giornalista da molti anni in questo settore, come sono i giornalisti di videogiochi oggi? Cioè, che preparazione hanno? Ce l'hanno o non ce l'hanno? Sono giovani? Mi fai una faccia, mi fa. Sì, direi che la webcam ti guarda da dietro, quindi perfetto, non dobbiamo... ottimo. Posso darti un feedback un po' personale, una mia sensazione. Sì. Poi non anch'io so. Anch'io ce l'ho, perché se non la esprimo. Non so se quella... Io vedo, c'è una divisione abbastanza netta tra quelli che sono magari giornalisti, tra virgolette, storici del settore, che da 10 anni o più seguono questa 25, ecco, e poi c'è tutta invece una serie di nuove eleve, chiamiamole così, che arriva dai blog, che arriva da internet e che sta entrando pian piano. Poi bisognerà vedere se in effetti c'è la competenza per poter seguire questo settore, però insomma ci sono anche nuove promesse in quest'ambito, poi bisognerà vedere poi se c'è spazio, se ci sono le potenzialità. Perché penso che dipenda anche da quello, cioè quando si parla di un qualcosa, più se ne parla con cognizione di causa, più si invitano le persone a crederci. È chiaro che se in questo caso stiamo parlando di videogiochi, ma anche di giochi in genere, se si scrive male, ma nel senso che scrive male non la critica, si scrive male nel senso che non si sa scrivere, proprio partiamo da lì, o non si sa raccontare una cosa, poi automaticamente chi ascolta o chi legge percepisce che anche quello di cui si parla non sia valido. Assolutamente, ecco, vero, assolutamente vero. Infatti la qualità anche con cui si scrive, con cui se ne parla, va valorizzata innanzitutto. Ecco, innanzitutto. Perché molto spesso ci sono refusi, errori proprio sintattici in tanti articoli, e questo chiaramente alla fine uno legge e dice vabbè, si parla di videogiochi, è chiaro che non sanno scrivere, e invece non è così. E torniamo invece ai videogiochi che servono secondo te a imparare? Assolutamente sì, su più livelli direi addirittura, dal ragazzino, dal teenager, diciamo, che magari può utilizzarli come complemento alla sua istruzione, ma anche per i grandi. Io stesso sono un appassionato di simulatori, ho vari esempi che ti potrei raccontare di come possono servire a imparare. Partiamo dal più banale: mi sono appassionato al football giocando a un simulatore di football che è Madden, che probabilmente tu conosci. Sì. Ne ho imparate le regole e poi ho cominciato a seguirlo in TV. Mi è capitato. Io ho fatto così col golf. Esattamente, o con il golf, con Tiger Woods. Mi è capitato ad esempio di dover andare a girare per divertimento personale al Mugello e di imparare prima la pista sul simulatore a casa, sul PC. Per cui assolutamente partiamo proprio da quelle che sono, come lo intendiamo, imparare, per cui nozioni di quelle che possono essere scolastiche, eccetera, con giochi di ruolo piuttosto che con strategici che danno un'infarinatura generale. Possono essere, chiaramente non sostituiscono quello che è l'istruzione, ma possono essere un buon punto di partenza alle simulazioni che ti possono aiutare poi nel mondo reale, per cui assolutamente sì. Senti, invece i videogiochi per imparare, cioè proprio quelli educativi, che sì. Successo se ce l'hanno hanno secondo te? Perché se ne parla sempre da tantissimi anni, forse da sempre, ma non vedo mai, non capisco mai onestamente se funzionano, se vengono utilizzati, se in realtà non vengono utilizzati, non lo so. Allora su questa domanda barcogliamo un po', nel o la senso tua percezione, che la mia percezione è, allora ci sono alcuni, ho saputo, mi è arrivata voce, poi bisognerebbe andare a verificare che in alcune scuole effettivamente ci siano dei videogiochi, come ti ho detto prima, utilizzati per l'apprendimento oppure possiamo anche vedere come tutta quell'area di giochi kids che quindi dedicati ai più piccoli insegnano le cose più fondamentali possono essere utili, per cui sicuramente secondo me c'è una valenza in questo senso. Poi da lì a dirti che esistano programmi di studio espressamente sviluppati su questi videogiochi non me la sento, perché andrebbero... Sì, sono delle integrazioni molto probabilmente, quindi di colorare, voglio dire, al posto di farlo con i pastelli veramente lo si può fare in modo digitale. C'è da dire che l'apprendimento in questo senso è molto più veloce, perché chiaramente vieni stimolato in altra maniera, non c'è più il vecchio librone che devi andare a sfogliare. Quando è un videogioco di fronte che ti racconta la storia o che ti racconta delle meccaniche particolari, sicuramente sei più invogliato ad apprendere, perché cambiamo noi, cambiano anche i metodi di apprendimento. Assolutamente. Le nuove generazioni probabilmente sono più pronte a questo. Certo, oggi toccheremo un po' tutto. Adesso siamo partiti dai videogiochi per poi anche spostarci tra pochissimo. Infatti cercheremo di svelarvi qualche curiosità sui comportamenti della Terra. E onestamente tante cose alle quali non saprei rispondere neanch'io, tra pochissimo. Il riposo del guerriero. È 10.30, riposo del guerriero, parliamo di imparare giocando oggi, siamo partiti dai videogiochi. Tra l'altro Matteo, mi sembra ci sia un gioco a domande di National Geographic, vero? Sei esattamente, sì. E sono dei quiz game in cui ti vengono proposte delle domande, appunto in questo caso incentrate su quelle che sono le varie declinazioni del programma televisivo, e sono carini perché coinvolgono proprio tutta la famiglia. Puoi utilizzare dei veri e propri buzzer, per cui come quelli che vedi alla fine in TV, che ti invogliano, esatto, sì, che premi, cioè. Quindi proprio scatta la bagarre, insomma sono simpatici perché ti invogliano appunto a imparare, a confrontarti anche con amici e a conoscere soprattutto, perché nel momento in cui non sai la risposta, infatti, leggi la risposta, infatti. Tu ad esempio sai perché l'acqua del mare non finisce mai? Cioè se tuo figlio ti chiedesse, Matteo, papà, perché l'acqua del mare non finisce mai? Tu cosa risponderesti? Perché salata e non ho voglia di berla, così stupidamente. Mario Tozzi, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Tu sei stato intervistato da Federico Taddia, insieme avete pubblicato Perché i vulcani si svegliano e tante altre domande sulla geologia. Sì, sulla Terra, la geologia, anche un po' di atmosfera, di clima. Ecco, intanto perché l'acqua del mare non finisce mai così? Quella, diciamo, più che non finire mai, diciamo, dipende dal sistema atmosferico e dai vulcani. I vulcani, quando la Terra ancora non aveva acqua del mare, hanno sviluppato gas ricchi di vapore d'acqua che poi condensandosi, quando la Terra si è un pochino raffreddata, hanno formato l'acqua del mare, e un pochino di acqua è arrivata anche dalle comete. Questo arrivo poi è conservato lì dal sistema dell'atmosfera, una specie di grande pellicola come quelle che si usano per mettere i cibi in frigo, no? Che è fatta da gas, però che conserva il sistema atmosferico con la stessa acqua. Noi abbiamo sempre la stessa acqua, è vero che la consumiamo come uomini, ma poi dopo ritorna in circolo, perché alla fine del nostro ciclo esistenziale più o meno ritorna nel circolo. L'acqua sulla Terra è sempre la stessa, dunque non finisce mai. In realtà no, si può contare e addirittura si potrebbe misurare in litri, ma ci vorrebbero dei numeri lunghissimi. Ecco, senti, voi avete appunto scritto questo libro che parte dalle domande che sono un po' tipiche dei bambini per arrivare poi alle risposte. È un po' come un gioco, perché il gioco è quello di fare le domande e il gioco tra genitori e figli è quello di riuscire a rispondere. Molto spesso i genitori non sanno onestamente rispondere. Allora, se non volete chiamare Mario Tozzi, potete avere il libro portato di mano. Effettivamente si tratta proprio di un libro che effettivamente è destinato ai bambini, ma più che altro è destinato ai genitori. No, infatti è lì che volevo arrivare. ma non per niente, perché diciamo, poste in maniera così domande addirittura diventano più difficili, perché appunto diventano basilari. Quante stelle ci sono in cielo? Sai, insomma, alla fine è più difficile rispondere a quello che non a una domanda di geologia. Noi cerchiamo di risistemare un po' del sapere sulla Terra, sulla nostra Terra, in maniera anche un po' divertente, perché le domande di Federico sono piuttosto, come potrei dire, irriverenti. No, ma perché sono tipicamente le domande che fanno i figli ai padri, o alle madri, ovviamente, ai genitori in generale, e la questione è riuscire a rispondere, perché è veramente difficile. Se mio figlio mi chiedesse se continuiamo a sfruttare la Terra rischia di finire, io lo guardo e dico, boh, forse. No, però, ecco, in questo senso c'è una doppia lettura. No, perché per il bambino è una risposta alle sue curiosità, e si sa che soprattutto in quell'età lì, diciamo intorno ai 8-10 anni, le curiosità sul mondo naturale sono tantissime, e dunque per loro è una risposta. Per i genitori invece è un modo di farsi altre domande e magari di approfondire un aspetto che normalmente nelle scuole poi si fa in maniera meno approfondita, ecco, uno non riesce a tirare fuori dal terreno di CD. Ci sono le cose basilari, insomma. Senti, è vero che le montagne possono crescere o diventano solo più... C'è Matteo Bonassi che è qua di fronte a me, sta guardando con una faccia perché fa ma che domanda è? E le domande... No, non solo possono crescere, ma possono anche invece abbassarsi. Quello è più facile comprenderlo. Quello lo capiamo di più, no? Sono i fiumi che le erodono e dunque le spianano. Alla fine ciascuna montagna diventerà una pianura. Mentre invece, per quello che riguarda che crescono, è che le montagne sono generate dall'attività del pianeta Terra. La Terra è un pianeta dinamico dove avvengono continuamente degli scontri fra grandi blocchi di crosta. Uno pensa, non è impossibile, e invece questo succede, e si formano come se noi spingessimo un tappeto dalle due parti opposte, formerebbe una serie di pieghe, no? Di ondine. Ecco, più o meno in quella maniera lì, quindi possono crescere. Ecco, parliamo di millimetri, non è che non pensiate no, che... No, di millimetri all'anno, certo, però esatto. Considera che... 100 metri alla volta, non è così. No, ecco, però in tantissimi anni, quanti ce n'ha a disposizione la Terra, effettivamente c'è tutto il tempo di farla crescere fino all'altezza dell'Everest, per esempio. Mario, ti sei sorpreso anche tu quando hai risposto ad alcune delle domande che ti ha fatto Federico? Sì, perché non me l'ero posto magari mai in quella maniera lì, no? Perché si cerca un approccio magari di altro tipo, perché non è il tuo... Perché Federico interpreta molto bene le domande appunto dei bambini, certo. E dunque è un po' come le domande che adesso mi comincia a fare mio figlio, che ha 7 anni e mezzo, e dunque lì riesco a... le risposte pronte, così non devi risfogliarti, te le sei già scritte. Senti, che opinioni hai dei videogiochi tu, visto che siamo partiti da quelli, Mario? Guarda, io trovo che siano una formidabile palestra di abilità e anche, di acume, di strategie, di tattiche. Magari vorrei che non si esagerasse troppo. In che senso? Nel senso che spesso stornano tempo per i bambini da altre attività più... che io ritengo forse a torto più formative, per esempio la lettura di un libro o un'altra cosa. Per gli adulti invece mi pare una roba contro lo stress piuttosto poderosa, mi sembra. È interessante questa visione, perché vabbè, certo, una cosa non deve sostituire l'altra, assolutamente. Grazie Mario Tozzi, buona Grazie domenica. A voi, buona giornata. Perché i vulcani si svegliano e tante altre domande sulla geologia, editoriale Scienza. Eccoci qua anche con Patrizia Bollo. Ciao Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Allora, tu sei una dietista, hai lavorato molto in ospedali, aziende sanitarie, sei professore di dietistica all'Università Statale di Milano. Allora, hai scritto un libro molto curioso, si intitola Giochiamo in cucina. esperimenti, giochi, ricette per imparare a cavarsela in cucina. Perché anche tu, come prima abbiamo visto, sei partita dal fatto che i bambini adorano mettere le mani in pasta e prendere gli ingredienti a caso e fare delle cose. Dico bene? Esattamente, nel senso che i bambini adorano fare, adorano giocare, sporcarsi, e direi che la cucina è un laboratorio perfetto per tutte queste attività. E quindi può essere un modo, quello di farli giocare in cucina, per trasmettere loro delle competenze che saranno poi utili per il loro futuro, quindi proprio delle minime basi per cavarsela appunto in cucina, e nello stesso tempo per stare insieme a loro in modo costruttivo, formativo e anche soprattutto molto divertente, perché lo sappiamo anche noi adulti che ci si diverte in cucina, ecco, sì, quando la cucina è al di fuori della routine, ecco. Assolutamente, magari evitando che mia nipote mi faccia mangiare le polpette fatte di carta, sarebbe meglio che facesse delle polpette magari fatte di qualcos'altro di più commestibile della carta. Esatto, delle polpettine di patate lesse e tonno che si prestano benissimo a essere mangiate più della carta, e sono anche divertenti da preparare, possono rappresentare poi una piccola merenda o uno spuntino. Da dove sei partita per inventarti queste ricette? Che sono, no, adesso no, le voglio chiamare ricette perché lo sono, perché sono un insieme di ingredienti. Però è curioso, tipo il riso, quello col cioccolato, col cacao, ma nel senso che nasce proprio con l'intento di mettere le mani in pasta e toccare un po' le cose. Funziona così, credo. Per le ricette sono partita da un po' dalle mie conoscenze, io amo cucinare, cucino da sempre, per cui poi ho attinto anche a delle fonti, chiaramente da ricettare. Il riso col cioccolato è una ricetta del sud, della Sicilia, e naturalmente ho scelto delle ricette in cui i bambini potevano essere molto autonomi. Ovvio poi con la supervisione dell'adulto, laddove ci sia da utilizzare degli strumenti anche pericolosi, tipo il forno, e anche, ecco, fonti di pericolo, certo, dal coltello al fuoco in avanti. Senti, hai inventato anche dei giochi da fare con le ricette e con gli ingredienti, diciamo, giocando con gli odori, i profumi. Sono dei giochi che sono poi degli stimoli sempre per far stare i bambini intorno al tavolo della cucina con delle attività divertenti, anche per occupare appunto i fine settimana e i pomeriggi dell'autunno e inverno quando si sta più in casa. E lo scopo è sempre quello di farli familiarizzare con degli attrezzi e ingredienti della cucina. Che poi si arrivi a produrre un panetto di burro oppure semplicemente a riconoscere il profumo del basilico da quello dell'origano, poco importa, l'importante è stare dentro, ecco, nella cucina, viverla, perché di fatto oggi i bambini frequentano molto meno la cucina rispetto alle generazioni precedenti. Una volta i compiti si facevano sul tavolo della cucina e quasi automaticamente si imparavano delle cose dalla mamma, dalla nonna. Sai che dici una cosa? Sai che dici? In cucina. Stai dicendo una cosa vera e io non, adesso me la fai venire in mente perché non ho mai associato, ed è proprio così. I compiti io li facevo in cucina mentre mia mamma preparava e quindi guardavo, hai ragione. Oggi magari, certo, c'è anche meno tempo di preparare. Ma c'è meno tempo e alle volte io penso ci sia proprio anche meno abitudine, si perde un po' la cultura. Io credo che questo librino piccolo, insomma, è uno spunto anche per recuperare delle abilità che insomma, abbiamo ancora ma le stiamo perdendo. Tra l'altro, imparare a fare delle cose molto semplici in casa è un modo anche per mangiare meglio. E poi anche per risparmiare, perché comunque tutto quanto è già pronto da buttare in padella, alla fine è anche molto più costoso, e direi che è anche il momento storico per fare una riflessione su questi aspetti. Guarda, ti faccio i miei complimenti, perché il libro è molto intelligente e carino e lo spunto è francamente piuttosto nuovo, e quindi brava Patrizia Bollo. Giochiamo in cucina, esperimenti, giochi, ricette per imparare a cavarsela in cucina, e ti stupiremo con il successo che ha avuto un videogioco che parla proprio di ingredienti. Grazie intanto Patrizia. Grazie a voi, buona domenica. E Matteo, parliamo di Cooking Mama e non soltanto. Il grande successo di questi giochi, sì, perché ne sono usciti poi più di una versione per la console portatile, sì, Nintendo DS. E non solo, dire, nel senso, questa console portatile ha aperto un mondo con il franchise Cooking Mama, perché il touchscreen permette di tagliare, affettare, ecco, mischiare. Lo schermo che si tocca. Lo schermo che si tocca, quindi, sì, per chi non lo conosce, e quindi ha aperto un mondo mondo in questo senso, perché proprio si affettavano i vari ingredienti, si mescolavano toccando lo schermo, si fanno delle ricette. Ma facendo delle vere ricette, però. Vere, un po' semplificate, ma comunque qualche relazione col mondo reale c'è. Poi invece sono usciti addirittura dei veri e propri ricettari per le console portate per Nintendo, quindi delle ricette memorizzate sul gioco che tu puoi seguire addirittura con i comandi vocali, quindi se ti sporchi le mani non devi nemmeno andare a toccare la console. Quando tu gli dici avanti, passa al passaggio successivo con il riconoscimento vocale, tu vai avanti a impastare, a fare. Ci sono non so quante ricette prese da ogni parte del mondo e può essere uno stimolo divertente per chi come me con la cucina c'entra bene o male pari a zero, però può essere invogliato, diciamo, a metterci mano, ecco. Ecco, secondo te perché c'è questo grande successo dei titoli dedicati alla cucina in realtà? Perché c'è la voglia di trasporre l'irreale, il virtuale, perché comunque il videogioco è sempre virtuale, nel mondo reale invece, quindi poi praticare veramente quello che si è visto. Direi anche sì, ma dal semplice mero divertimento di Cooking Mama, che poi è un semplice esercizio di abilità. Poi il resto, se lo vediamo più ad ampio raggio, sì, riportare nel mondo reale quello che si fa nel virtuale potrebbe essere uno stimolo in più. È un po' come succede con i simulatori, no? Esatto, il momento in cui tu simuli qualche cosa, poi alla fine hai così la voglia di sperimentare il vero. O di scoprirlo, di approfondire poi nel mondo reale, un po' di quello di cui stavamo parlando prima. Ecco, quindi questo è anche un motivo per far capire che videogioco forse è l'inizio poi di una scoperta del reale, cioè non credo che isoli come tanti pensano, ma in realtà porta poi al voler conoscere dal vivo, dal vero. Cioè, ad esempio, hanno dimostrato, questo proprio le ricerche l'hanno fatto, che i musei che hanno degli ottimi siti poi invogliano i frequentatori del sito ad andare a vedere davvero il museo, perché non basta più l'esperienza soltanto virtuale, ma poi si vuole quella, insomma, reale. Certo. I sensi sono importanti. Sì, sono assolutamente d'accordo. Direi che come in tutte le cose, ma questo è elementare, vale il buon senso, ovvero non fossilizzarsi per delle ore e ore davanti alla TV, quindi o davanti alla console, ma un mix di tutto. Ma questo penso che sia proprio alle basi del buon senso di tutte le cose. Ecco, Matteo per esempio è un grandissimo videogiocatore, a parte che scrive di questo, dirige una rivista, però è anche un batterista in un gruppo, e quindi dovrei usare anche molto tempo per provare, immagino, sì. Oltre magari a giocare a Guitar Hero piuttosto che a Band Hero e poi va in snowboard e quindi pratichi anche uno sport, una serie di attività. Sì, poi è bello appassionarsi anche un tosto. Po' tutto, no? Perché insomma la vita è una sola, secondo me, quando non ha la possibilità di provare. No, ecco, dico, pena. Quindi non è che ti fossilizzi davanti al video. No, assolutamente, console, assolutamente no, anzi direi che insomma è un giusto, va preso bene il giusto mix di tutto, e appassionarsi un po' a tutto fa bene, scoprire nuove cose, anzi parlavamo prima, i videogiochi possono essere uno spunto. Addirittura io ai tempi, questa te la racconto, non ho detto magari simpatico, mi sono talmente appassionato dopo aver giocato a Madden che ho provato anche a giocare a football per davvero nei Rhinos Milano. Sono durato poco perché il fisico non me lo permette, ma insomma questo per dirti quanto poi può essere... Hai curato l'occhio nero e poi sei tornato a giocare con la console, ma sì, questo sì, è un sì. Buono spunto, almeno uno si rifà, se non dal vivo, se infatti, rifà nel virtuale. In modo virtuale. Gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Vi ridico anche il numero per gli sms: 349-238-6666. Matteo, scrive Sergio, che è un docente di informatica alla scuola superiore e usa un software chiamato Scratch, che è realizzato dal MIT e che insegna realizzando giochi e storie interattive. Lo conosci? Sì, no. Non lo conosco, ma avevo sentito di esempi simili, per cui assolutamente benvengano. Ecco, chi ha anche il coraggio poi di proporre questi sistemi per insegnare ed informare, benvengano, è futuro sicuramente. Addirittura abbiamo scoperto poco tempo fa di una scuola media, se non erro a Bollate, dove tutto viene fatto su iPad, per cui sfruttando anche incentivi europei eccetera, c'è una classe che sta lavorando proprio con delle integrazioni quotidiane con questo sistema, ed è il futuro, per cui benvengano. Assolutamente sì, continuiamo a giocare allora. Io partirei da questa canzone. E la sono schiavo della moto, non faccio più moto, in effetti vado solo in moto, ma ora sono diventato un mito, Eccolo qui, questo era Elio, le storie tese con John Holmes, una vita per il cinema. Abbiamo una frase come: non faccio più moto, infatti vado solo in moto, ma ora sono diventato un mito, ho rilanciato un film muto. Francesca Dragotto, la nostra glottologa, ciao Francesca. Buongiorno. Mi ha svegliato stamattina dicendo metti questa canzone e io l'ho fatto. È geniale. Da dove partiamo? Dalle pene del pene? Che il pene mi dà pane? Com'è? Certamente sì, sì. Componimenti, nello specifico canzoni, quindi componimenti musicali costruiti giocando con la lingua. La canzone di Elio e le storie tese ci dimostra come sia possibile fare cultura linguistica e soprattutto metalinguistica, quindi spiegare come funzionano le lingue in maniera piacevole. Sì, entriamo nello specifico. Non sapevo se volevi intervenire con delle domande, perché hai già spiegato tutto, quindi le domande non ci sono. Vai. Che dire di più? Le pene, per colpa del pene, quindi parliamo di omofoni, parole che suonano identiche ma che hanno significati completamente diversi, così come la moto, la motocicletta, il moto, il movimento. Anche qui un caso di perfetta omofonia, in questo caso almeno in partenza correlata etimologicamente, che però poi si è persa nel corso del tempo, che arriva a veicolare dei significati completamente diversi. Nella seconda strofa della canzone c'è un altro gioco davvero notevole, basato sulla segmentazione. L'aggettivo sudicio, nel senso di sporco, viene reinterpretato a distanza di un verso come su di ciò, a proposito di questa cosa. Quindi la canzone mostra veramente come attraverso la lingua si possa giocare e si possano spiegare quei meccanismi che attraverso la sostituzione di un solo suono portano alla generazione di tante altre parole. Quindi sempre rimanendo alla strofa che abbiamo sentito, abbiamo moto, mito, muto, quindi vediamo proprio come attraverso il cambio di una vocale si generi un paradigma, una lista di parole completamente differente per significato. Ecco, tu credi che Elio, quando ho scritto il testo di questa canzone, abbia pensato a tutte queste cose o semplicemente si sia divertito? Ma io sono convinta che i più grandi linguisti siano i comici. Elio in qualche modo ha una vis comica molto forte, certo. Perché hanno proprio in maniera istintiva, possiedono la capacità di saper giocare con la lingua, quindi sono convinta che sia pienamente consapevole dei meccanismi che ha utilizzato e che anzi li abbia declinati fino a dove la lingua e la norma linguistica gli ha consentito di fare, introducendo quindi parole che spesso troviamo nelle sue canzoni. Ti ho suggerito questa semplicemente perché è quella che nel giro di poche battute ne condensa un numero molto alto, però non è l'unico caso, ma appunto sono convinta che spesso i ritornelli o le strofe delle sue canzoni abbiano quella forma proprio perché a monte ci sia un gioco linguistico. Ecco, quindi tu dici che si può proprio imparare anche in questo senso ascoltando una canzone che apparentemente può sembrare banale, non lo è affatto, è divertente, questo lo è sicuramente, e si può proprio imparare analizzando un po' il testo, quindi leggendo anche i testi delle canzoni è importante. E poi tu ti volevi spostare anche su invece un grandissimo autore e anche insegnante stato, che è Gianni Rodari. Beh sì, sempre rimanendo nell'ambito della composizione di testi che hanno a che fare con il gioco e l'acquisizione della lingua, perché naturalmente ho cercato di spostare l'idea di imparare giocando sul versante che mi è più vicino. Avevo pensato alla prima parte di Per colpa di un accento, di Gianni Rodari per l'appunto, in cui si dice che per colpa di un accento un tale di Santià credeva di essere alla metà ed era credeva di essere alla meta ed era appena alla metà. Ecco, sono caduta io stessa nell'errore, quindi anche qui spostando l'accento da una sillaba all'altra cambia completamente il significato, si ingenera però una catena fonica che viene memorizzata facilmente dal bambino e che gli consente, dal bambino perché immaginiamo sia il principale lettore, ma poi in realtà le favole di Rodari sono transgenerazionali, quindi spostando l'accento otteniamo due significati completamente differenti e soprattutto otteniamo un agnome, una sentenza, un insegnamento che poi è quello che rimane anche una volta dimenticate esattamente le parole che sono state utilizzate. Ecco, c'è tra l'altro un'altra, diciamo così, frase, c'è un'altra frase, un'altra delle filastrocche che sono state scritte da Rodari e che proprio partivano da questo presupposto, era como nel comò, dice una volta un accento per distrazione cascò sulla città di Como, mutandola in Comò. Figuratevi cittadini comaschi poveretti, detto e fatto, si trovarono rinchiusi nei cassetti. Per fortuna uno scolaro rilesse il componimento e liberò i prigionieri cancellando l'accento. Ora i giardini pubblici hanno dedicato un busto a colui che sa mettere gli accenti al posto giusto. Ecco qui. Esattamente. Direi un ottimo sistema per insegnare. Un po' si è perso, anche se io consiglio a tutti di leggere Rodari, sia genitori per se stessi e sia genitori per i figli. So, questo è. Sì. È un'occasione sicuramente di riflessione anche sulla lingua, oltre che naturalmente sui contenuti. Però in generale tutto quello che è stato detto fino a questo punto nella trasmissione si presta all'interpretazione anche metalinguistica, perché parlavate di videogiochi. Nel videogioco spesso un indovinello diventa l'elemento fondamentale per passare al livello successivo. L'indovinello è manipolazione linguistica, perché devo far arrivare ad un indizio, che è una parola, quindi un elemento linguistico, attraverso un processo interpretativo. I giochi, non avete ancora nominato esplicitamente i giochi da tavola, però ci sono tantissimi giochi con cui parecchie generazioni sono cresciute. Penso al classico, il paroliamo, che si basano sulla capacità di saper combinare lettere per formare parole. Lo scarabeo. Lo scarabeo, il paroliere, oppure, se vogliamo andare su un gioco molto più sofisticato, il tabù. Perché nel tabù abbiamo un grado di difficoltà più elevato, che consiste nel fatto di non poter usare parole che etimologicamente sono collegate alla parola che si deve indovinare. Certo, quelle più semplici, esatto, bisogna indovinare una parola, ma senza usare altre parole che sarebbero quelle più facili da pensare in quel momento, per cui obbliga chiaramente a costruire e a raccontare quell'oggetto o quell'azione in un modo completamente diverso dal solito. Grazie di averci ricordati, Francesca, perché insomma i giochi da tavola non vanno mai dimenticati. E continuiamo a parlare di imparare giocando nella seconda parte del Riposo del Guerriero. Il Riposo del Guerriero. Oggi nel Riposo del Guerriero, alle 11:06, stiamo parlando di imparare, ma imparare giocando. Siamo partiti dal Games Week, che saranno questi 3 giorni dedicati al mondo dei videogiochi a Milano in fiera, evento per la prima volta inventato, insomma, cioè, che per la prima volta si tiene, e speriamo che abbia poi talmente tanto successo da essere trasportato in altre città in Italia, ma noi pensiamo di sì. Ci siamo spostati a un certo punto sulle parole, grazie alla nostra Francesca Dragotto, e siamo arrivati all'enigmistica, e Matteo Bonassi, che è il direttore di Game Informer, ci diceva che sì, che l'enigmistica è già diventata un videogioco, è uscito alla fine di agosto, sempre su piattaforma portatile Nintendo. Si chiama proprio l'enigmistica ed è la trasposizione digitale, diciamo, di quella che troviamo in edicola tutte le settimane, con tutta una serie di plus offerti dagli da quello che possono essere gli aggiornamenti, il fatto di avere un sacco di enigmi. Però diciamo anche in questo caso il touchscreen, che è quello con cui tu interagisci con il pennino, permette di divertirsi in maniera un po' più digitale, ecco, per certo, così poi dire. Ne sono state fatte anche di altre di riviste dedicate al mondo enigmistica e per i tablet in generale. Esattamente, perché si prestano ovviamente a questa interazione. Beh, i tablet hanno anche la bellezza che tu puoi cancellare, darlo a qualcun altro e fargli fare il cruciverba, faccio un esempio, senza dover cancellare, perché poi una volta fatto sulla oppure carta. Quando pasticci il sudoku piuttosto che sbagli le parole, non hai il problema. Io lo odio il sudoku, non lo sopporto. Ennio Perez, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Ennio Perez è un enigmista italiano, lei fa un mestiere straordinario, lo vorrei fare io, ma ogni tanto mi diverto a inventare dei giochi. Ennio, come siamo noi italiani rispetto, come stiamo diventando noi italiani rispetto all'enigmistica? Ma credo che sia un passatempo che è sempre costante, insomma. Non stiamo perdendo adepti, diciamo così, gli appassionati sono sempre tanti? Sì, ma insomma poi l'enigmistica è a vari livelli, insomma, perché c'è un tipo di enigmistica un po' più colta che ha un numero di appassionati ridotto, un'elite, diciamo, e questi consultano delle riviste che si possono procurare solo per abbonamento e hanno un numero piuttosto ristretto, insomma, di abbonati. Poi ci sono le riviste di enigmistica popolare, quelle che vengono vendute nelle edicole, quelle sì, quelle che conosciamo, certo. Perché tra l'altro ce ne sono di vario genere, oltre la settimana enigmistica, che è quella che insomma fa un po' una delle più famose, sì, insomma, è come se fosse l'albero, no? Certo. E sotto c'è tutto appunto un sottobosco insomma di altre riviste che vendono molto di meno, ma vendono e quindi soddisfano insomma le richieste Ecco Perez, dovendo imparare giocando, quali sono i giochi enigmistici che lei potrebbe consigliare per migliorare e migliorarsi? Ma dunque, bisogna vedere, ci sono sempre due aspetti poi dell'enigmistica, sì. Cioè la risoluzione degli enigmi e l'ideazione degli enigmi. E a livello di risoluzione sicuramente sono più stimolanti gli enigmi che sono basati sull'interpretazione semantica del discorso, perché attivano conoscenze. Ho sentito prima che si parlava della differenza fra i giochi da tavola Scrabble, Paroliamo, sì, esatto. Paroliere e Tabù, per esempio, no? Ecco, e Tabù è un gioco un po' più impegnativo perché appunto non coinvolge soltanto la capacità di saper ricavare una parola, ma quella di impostare un discorso, e un discorso che non contenga determinate parole, quindi insomma l'impegno mentale del giocatore è maggiore. Quindi ci sono giochi enigmistici basati sull'interpretazione del contesto, e sono tutti giochi di tipo insomma basati su giochi di parole, insomma su significati ambigui, no? Sono quindi gli indovinelli e tutta la classe dei giochi inversi, però basati appunto sempre su giochi di parole, per intenderci quelli che non contengono le X o le Y nel testo, no? Che sì, certo, dove tutto è più chiaro. Sì, quelli sono giochi dove bisogna intuire quale parola insomma può completare un certo discorso, mentre invece sono più interessanti quelli dove non c'è nessun aiuto di questo genere e bisogna ricavarlo interpretando opportunamente i versi, insomma le parole che si leggono. Ecco, sì, parliamo tipo dei lucchetti, non so, faccio un esempio. Sì, per il problema del lucchetto, della ciarada, sì, o del cambio, scarto, cioè non è tanto il meccanismo quanto il modo con cui viene presentato il gioco, perché se viene presentato con quella forma dove alcune parole vengono mascherate e bisogna soltanto insomma intuire quali sono, è un tipo di attività, sì, però non molto qualificante. Insomma, invece se lo stesso meccanismo è stato usato per mascherare in un apparente componimento poetico insomma alcune parole, allora questo è sicuramente più, perché lì si inserisce anche l'indovinello, no? Sì, l'indovinello, mettere insieme le due cose, certo. Cioè, gli indovinelli che possono essere indovinelli semplici, cioè nel senso che portano a una sola soluzione, o appunto giochi basati su tanti indovinelli diciamo sì, concatenati, che ognuno dei quali porta a una soluzione, e dove ogni frase porta a qualcosa che niente ha a che fare. E cioè poi che queste parole sono collegate tra di loro attraverso un meccanismo linguistico che viene palesato, insomma. E questo è un discorso. Poi ci sono, non so, i cruciverba, i classici cruciverba. Se i cruciverba sono cruciverba nozionistici, siamo a livello di una collezione di quiz, insomma di domande e risposta, e lì l'unica attività che viene stimolata, che comunque è importante stimolare, è la memoria. Però se i cruciverba contengono, sono le definizioni, sono confezionate in base a un gioco di parole, allora ecco che aggiungiamo un livello di difficoltà in più, e che richiede anche una conoscenza diversa, e quindi questo in questo livello senso di poi, certo, a livello di ideazione allora lì tutti i giochi vanno bene, perché comunque l'attività di chi crea è comunque un'attività molto importante. Ecco, infatti l'invito magari non è soltanto quello di risolvere, ma anche quello di creare, perché sì, è un gioco anche quello, alla fine, mettersi a costruire. È il gioco più bello. Beh, sicuramente. Io mi sono spostato. Anch'io mi diverto di più a creare, devo dire, e magari perché non sono un bravo assolutore. Ennio Perez, grazie intanto, buona domenica. Grazie a voi. Grazie, grazie. Velocemente Danilo Mattioli, ciao Danilo, buongiorno. Ciao. Danilo è un informatico e ha fondato un sito chiamato sapientoni.it. Sì, una decina di anni fa mi è venuta questa idea, perché sono un grande appassionato di internet e di tutte le curiosità sul mondo, insomma. Così ho avuto questa idea di realizzare questo quiz, perché mi è piaciuto anche un po' il fatto che gli utenti potessero avere una parte attiva di questo quiz. Ecco, infatti in questo sito tu hai raccolto delle domande di cultura generale e che sono cresciute, diciamo così, grazie agli utenti che hanno scritto. Sei arrivato a quante domande in questo momento? Quasi 43.000 oggi. Ecco, una base di partenza di 1.000. Ecco, tu pensi che uno preparandosi poi sulle 43.000 domande che hai messo sul sito riesca poi a diventare milionario nel gioco? Forse sì, se partecipa. Tu dovresti partecipare però. Dovresti partecipare perché avendo dovuto inserire tutto nel sito automaticamente dovresti conoscere ormai le risposte di tutto. Magari, ma non è così facile. Sul sito mio ci sono sicuramente persone più qualificate. Quanti iscritti ci sono in questo momento, Danilo? Ma gli iscritti sono circa 7.000. Sì. Però gli utenti attivi, diciamo, 300-400. Ecco, perché bisogna registrarsi, ma è completamente gratuito farlo, ovviamente, ovviamente per poter accedere. Allora, se volete così mettervi alla prova con 43.000 quiz e magari poi aggiungere anche i vostri, provate a visitare questo sito che è interessante perché è l'unico nel suo genere, sapientoni.it. Grazie Danilo. Ciao, buona domenica, ciao. Le 11:16 minuti, gli aggiornamenti sul traffico e poi parliamo di un titolo che ne raccoglie molti, non voglio anticiparvi troppo. Il riposo del guerriero. Ma cosa sono i crucipixel? Tu sai cosa sono i crucipixel? Pixel mi manca. Non ne parla nessuno perché non sappiamo cosa siano, no? Perché qualcuno ha scritto adoro i crucipixel, ma appunto non ci sono. Dovremmo avere un ospite in questo momento, ce l'ho, eccola qui. Io però mi sono persa e mi sono perso il nome dell'ospite. Patrizia, no. Perdonatemi perché stavo parlando della cosa dopo. Chiara Luzzi, pronto, buongiorno. Sì. Chiara, scusami, stavamo parlando di una cosa della quale poi racconteremo tra poco e tu sei autrice di un libro, Questo strano strano mondo, giochi per imparare a improvvisare, edito da La Meridiana. Allora, l'improvvisazione nel mondo dei giochi, è importantissima. Tu hai inserito l'improvvisazione, non solo nel mondo dei giochi, ma nel mondo delle arti, danza, musica, recitazione e vita in generale, e tu proponi dei giochi per imparare a improvvisare in questo libro. E da dove nascono? Come te li sei costruiti? Li hai scoperti mano a mano facendoli tu stessa? Sì, innanzitutto il libro vuole essere appunto un input non solo per i docenti, quindi per chi si occupa di didattica, ma anche per l'individuo a riscoprire questa tecnica antichissima sin dall'antica Grecia, insomma, era presente già nei greci. È un brevissimo excursus nella prima parte nella quale parlo proprio dell'improvvisazione come tecnica per far emergere le emozioni e quindi un percorso per riscoprire l'improvvisazione all'interno delle varie arti. Nella musica l'improvvisazione si crede sia appannaggio esclusivo del jazz, in realtà è presente già nel Medioevo, è presente in Bach, è presente in altri generi musicali, nella musica spagnola. Ecco, io poi tra l'altro sfido chiunque, abbia un gruppo, Matteo è un esempio, a non stare lì a improvvisare, perché credo che sia un esercizio costante. Sì. Ecco, poi l'improvvisazione. E quindi, come dicevo, sì. No, dicevo, l'improvvisazione fa parte proprio della natura umana, provare, noi proviamo e poi qualcosa emergerà, no? Uscirà magari con un criterio. L'improvvisazione che è una, come dicevi giustamente, fa parte della natura umana perché è una composizione istantanea, e quindi accade hic et nunc, accade nel momento stesso in cui si sta realizzando qualcosa. E l'obiettivo è proprio quello di far uscire l'emozione. L'emozione è uno stato mentale fisiologico e quindi da emotus, muovere, trasportare fuori, smuovere, scuotere. L'obiettivo dell'emozione è proprio quella di rendere efficace la reazione dell'individuo a situazioni in cui è necessaria una risposta immediata alla sopravvivenza. Quindi oggi soprattutto essere consapevoli delle proprie emozioni, quindi conoscersi fino in fondo, ci permette di interagire maggiormente con gli altri e, perché no, essere utili anche in una relazione d'aiuto. L'obiettivo del libro è proprio questo. Infatti, come ti dicevo, oltre che nella musica, l'excursus che presento nella prima parte è proprio una riscoperta dell'improvvisazione nel teatro. Pensiamo ad Aristofane, a Plauto, Commedia dell'arte, pensiamo a Totò, ma anche nella danza, nelle arti grafiche. Infatti il gioco che propongo nella presentazione soprattutto è il gioco numero 11, l'azione. Sì. È un dripping, è una tecnica che fa parte dell'action painting, di cui il massimo esponente è stato appunto Jackson Pollock. Parliamo di uno stile di pittura che si è diffuso tra gli anni 40 e 60. Una serie di giochi, come appunto quello che dicevo, l'azione numero 11, in cui io preparo un telo bianco e offro la possibilità ai bambini, ma anche agli adulti, di interagire con colori, oggetti, materiale di riciclo e suoni che vengono prodotti naturalmente da me, con la voce, accanto a me un tamburellista con i tamburi a cornice, Antonio Latela, e offrire loro la possibilità di far emergere le emozioni, quindi di riconoscerle poi in un secondo momento e di connotarle. Ecco, Chiara, ho una curiosità: quando alla fine tu proponi questo tipo di gioco, quindi abbiamo detto un grande telo di stoffa bianca con tanto materiale, colori di tanti generi, pennelli grandi, spugne, carte abrasive, carte di ogni tipologia, poi materiale di riciclo, sugo, insomma tutto quello che c'è a disposizione, no? E che magari andrebbe buttato via, invece viene utilizzato incollato su questo telone. La mia domanda è: il risultato finale di solito è un risultato assolutamente astratto o si cerca sempre di raccontare qualcosa in quello che emerge? Si cerca sempre di raccontare qualcosa, ed è proprio questo l'obiettivo del gioco, come ti dicevo, quello di far emergere ciò che abbiamo dentro. Ecco, quindi non sono necessariamente dei disegni astratti, ma possono essere un tramonto, per esempio, mi viene in mente una cosa semplice, una casa da qualche parte. Comunque si cerca di replicare la realtà, anche se chiaramente con il materiale che si ha a disposizione. Sì, si cerca di far uscire quello che è la nostra realtà, la propria. Ognuno dei bambini o delle persone coinvolte in questo gioco, per esempio, fanno emergere quello che sono veramente. Prima ti parlavo di relazione d'aiuto, perché in questo caso chi deve interagire, faccio un esempio pratico, qualora si dovesse interagire con un diversamente abile, per esempio, un gioco del genere permette di successivamente, ovviamente, di fare un'analisi del disegno e quindi permette di interagire aiutando la persona, il bambino piuttosto che l'adulto, insomma. Ecco perché parlavo di relazione d'aiuto. Certo, beh, molto chiaro e in effetti anche molto utile. Allora, se volete leggere quali sono questi giochi per imparare a improvvisare nelle arti, ma poi abbiamo detto improvvisare nella vita, perché è sempre assolutamente utile, Chiara Liuzzi, il libro è questo strano mondo, giochi per imparare a improvvisare, edito dalla Meridiana. Grazie Chiara e buona domenica. Come no? Beh, dire certo. Direi che al libro sono legate delle schede. Sì. Che rappresentano, hanno insomma come soggetto varie cose, le formiche piuttosto che un tramonto, piuttosto che un gioco. Le schede possono essere assemblate liberamente, poiché l'obiettivo è proprio quello di creare sempre storie nuove. Oltre alle schede ci sono dei file audio che si possono scaricare direttamente dal sito della Meridiana, che mettono in evidenza alcune improvvisazioni musicali. tutto qui. Grazie, grazie. A voi di Radio 24. Sei stata molto chiara. Tra l'altro, ecco, vedi Matteo, in questo caso. Assolutamente. E questa è la diversità fra il cartaceo e il file. Io ho ricevuto il file, infatti, e quindi mi mancavano sia i file audio e sia queste carte. Non lo sapevo. Serve tutto. Parliamo di videogiochi, visto che abbiamo cominciato con quelli. Video game. Video game. Qui Vicky Vale, siamo in diretta da Arkham City, il discusso supercarcere realizzato proprio nel cuore di Gotham. Tra poco Bruce Wayne sarà su questo palco per spiegare il suo improvviso interesse nella politica di Gotham. Il famoso playboy milionario non è mai stato il tipo miliardario, da... Vicky. I milionari sono fuori moda. Immagino che ti considerassi intoccabile, ma come puoi vedere, nessuno è intoccabile. Grazie, grazie Gotham. Chiusi tra queste mura, i capibanda combattono una guerra sanguinosa in quella che un tempo era una grande città. Tutti i detenuti del manicomio di Arkham e del carcere di Blackgate sono stati trasferiti in questa struttura. Come può essere sicura per la gente di Gotham? Chiudi Arkham City ora! È fuori controllo! Chiudere Arkham? Entro questa sera io diventerò un eroe. Proprio come te, Batman. Eccolo qui, allora parliamo di questo videogioco che è Batman Arkham City per PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Cosa diciamo Matteo? Beh, siamo di fronte a una produzione eccezionale, tra l'altro sulla nostra rivista è stata votata con un rating di 10 su 10. E infatti anche il videogioco, avrei dato 10. Il videogioco quasi perfetto, proprio perché vabbè, assolutamente coinvolgente, tant'è che quando poi dopo un po' che ci hai giocato esci per strada ti viene voglia di poter volare come Batman, ma al di là della battuta riassume proprio tanti, prende il meglio di ogni genere e lo riassume in un unico gioco e lo fa in maniera assolutamente esaltante. Ecco, questo è l'esempio di come copiando diciamo così da altri titoli di grande successo, faccio un esempio Assassin's Creed perché lo ricorda in alcuni aspetti molto, e Tomb Raider, esatto, che è stato uno dei primi giochi che avevo inserito l'azione con i puzzle game, cioè con il fatto di risolvere degli enigmi per riuscire ad andare avanti nella storia. E Devil May Cry mi veniva in mente, no? Quindi un gioco dove bisogna picchiare tra gli altri per riuscire ad andare avanti, riesce questo titolo a mettere insieme tutto questo in un modo straordinario e nuovo. Lo fa, sì, lo fa benissimo, ti stimola ad andare avanti. Poi abbiamo parlato fino adesso ad esempio di enigmistica, di puzzle solving, per cui proprio ti sprona a cercare delle soluzioni che non sono così ovvie, ma lo fa accontentandoti poi anche in altre maniere, ovvero con scazzottate riprese dal fumetto originale di Batman, realizzate benissimo, sembra quasi di guardare un film, anzi poi graficamente il gioco è uno spettacolo per gli occhi, per cui... Anche il doppiaggio che è curato è fatto con gli stessi doppiatori del film, di conseguenza il doppiaggio è davvero straordinario. L'abbiamo anche appena sentito. Anche la sceneggiatura è scritta particolarmente bene. E questo è veramente un esempio di come il videogioco possa insegnare da tanti punti di vista, nel senso che è una forma artistica completa, direi. Assolutamente sì. C'era questo dibattito aperto da parecchi anni tra ma i videogiochi sono arte, non lo sono. Beh, io direi che davanti a un prodotto del genere non si possa non notare comunque come venga fuori poi la vena artistica di chi l'ha prodotto, dello sviluppatore, del publisher. Che l'hanno messo insieme, per cui è quasi tra virgolette meglio di un film, perché poi lo vivi in prima persona e ti racconta una storia altrettanto interessante come quelle che siamo abituati a vivere al cinema. Esatto, ad ascoltare e a seguire. L'altro anche gli enigmi proposti sono non sono sempre semplici assolutamente, per cui è divertente da giocare, per esempio per chi vuole ama più l'azione fa quella parte, e poi magari se avvicino qualcuno che ama di più la parte ragionata puoi dedicarsi a quella e mettere insieme le due realtà. Poi questa città è un vero e proprio open space, quindi un posto da esplorare, un open world scusami, per cui un posto da esplorare e ognuno può poi coglierci quello che vuole, o il gioco o la parte più di azione oppure la parte più di enigmistica, può sbizzarrirsi insomma sempre impersonando Batman ma sviluppando la parte del gioco che più gli interessa. avrete la possibilità di essere anche Catwoman, se vorrete, in sì. questo titolo. E tra l'altro ha venduto quasi 5 milioni di unità in tutto il mondo in una settimana, per cui in effetti è un titolo davvero atteso. Quindi se cercate qualcosa che vada bene anche ai principianti, perché poi il gioco diventa più difficile man mano che si va avanti, più si ha esperienza più diventa complicato, ma parte, devo dire, in modo piuttosto semplice, Batman Arkham City. Ed è tutto per i videogiochi di oggi. Prima di salutarti, Matteo, io così aprirei la porta a non tanto ai giochi, ma anzi ai giochi del palato, perché no? Il gastronauta. Ciao Davide Paolini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il nostro gioco del palato oggi a che cosa lo dedichiamo? Ma guarda, stavo proprio riflettendo mentre aspettavo la tua chiamata e devo dire che mi faccio riferimento a un articolo che ho scritto stamattina sul Sole 24 Ore, a una cena che ho fatto da Paolo Lopriore, che è un grandissimo chef della Certosa di Maggiano, anzi del canto della Certosa di Maggiano di Siena, a un piatto che sono i ravioli di cicoria. E questo magari dice poco, ma in realtà questi sono quattro ravioli, ognuno dei quali è declinato a un sapore diverso, all'olio, alla colatura di alici, all'aceto e nature. E allora è un gioco perché uno riscopre i quattro sapori che vengono sempre citati teoricamente, dolce, amaro, salato e acido. Ecco, questo credo che sia una cosa veramente molto interessante e molto intelligente, nel senso invece di parlare sempre di appunto profumi e sapori, cioè farli vivere proprio, no, è un gioco, infatti, è un grandissimo piatto, non vorrei diminuirlo, cioè un grandissimo piatto, però finisce anche per essere un gioco del palato. E devo dire che molte volte quando si va a mangiare in certi locali, forse bisogna anche saper distinguere, ci si va per giocare col palato o con la testa, con il cervello. Io dico sempre che si mangia con la testa e non con la pancia. Ecco, quando si va per mangiare con la testa, secondo me è importante giocare, perché è un gioco poi con la testa, mentre con la pancia diventa un qualcosa di completamente diverso. E allora io molte volte trovo in alcuni piatti questo tipo di gioco del palato, ma devo dire che, cambiando completamente così campo, il gioco diciamo dei sapori, dei profumi, per far conoscere anche ai bambini, l'ho visto tanti anni fa in un museo di una multinazionale che molte volte viene attaccata per i suoi prodotti, per certe sue campagne, che era Nestlé. Nel museo di Vevey, dove c'è la sede, c'è tutta una parte di questo museo antropologico sull'alimentazione dedicata ai bambini. Bene, si insegna ai bambini a crearsi piatti attraverso dei colori, dei cibi, e quindi farsi, diciamo, un menù corretto. Ecco, anche questo secondo me non è un gioco del palato, ma è sempre un gioco che si fa col cibo. E io credo che nelle scuole si potrebbe giocare molto con il cibo, proprio per insegnare correttamente l'educazione alimentare. Io non credo alle educazioni imposte, alle lezioni di educazione alimentare, perché secondo me è sempre una costrizione. Un'imposizione. Io credo invece molto al gioco per imparare, perché così i bambini non hanno un'altra materia in più che dice uffa che noia, ma giocando imparano. Ecco, io ci credo moltissimo su questo e penso che potrebbe essere una didattica molto, molto importante, che potrebbe dare nei frutti poi quando da bambini si diventa adulti. Io sono concorde con te assolutamente, sai come la penso, Davide, e siccome la scuola questo forse non lo può offrire o non è pronta per farlo, cerchiamo di farlo almeno come genitori, no? Possiamo cominciare a farlo a casa. A casa si può fare, sai, il problema è sempre quello del tempo. Molti genitori purtroppo lavorano, ritorniamo al discorso della cucina, che le donne non cucinano più perché pochi hanno tempo. Non è facile, non è sicuramente facile, però io pregherei gli inventori di giochi. Ecco, questo sì, ci sono tanti inventori di giochi, tanti giochi inutili che costano anche molto cari. Ecco, sicuramente se si andasse a indirizzare, ecco, prendo ad esempio il piccolo chimico che tutti più o meno hanno avuto da bambino, se ci fosse il piccolo cuoco. Ma il dolce forno, per esempio, stato uno dei giochi più di grande successo, che obbligava i bambini a costruirsi, a farsi i dolcetti, comunque, e quindi ebbe grande successo perché c'era, però insomma non c'è più, non penso che sia mai diventato fuori legge per vari motivi. No, infatti si vedono ora i pentolame per bambini e quindi sì, anche un modo questo di avvicinarli, sicuramente fargli capire ciò che è corretto, ciò che è sbagliato, perché insomma si parla sempre qui di educazione alimentare anche agli adulti. Ecco, io credo che l'educazione venga lentamente, non si impone, secondo me, specialmente certo. Non si impone come materia scolastica, dobbiamo proporla e non imporla. Grazie Davide, alla domenica prossima. Ciao, prossima, grazie prossima. Subito le previsioni del tempo. Il riposo del guerriero. 11:38 minuti, pronti per partire con il nostro mistero in 24 minuti, però prima saluto Matteo Bonassi, grazie, direttore di Game Informer. Grazie a te Stefano, a tutti gli ascoltatori. Allora, impariamo videogiocando anche, ma non soltanto. Anche sì, poi vi aspettiamo chiaramente, parlando mai del settore, alla Games Week che incomincerà venerdì, così avrete la possibilità di vedere un po' di novità, di scoprirne altre, magari appassionarvi anche a qualcosa che e di ricredervi se vi... avete dei pregiudizi. Assolutamente sì. Fondamentale, perché adesso ovviamente il videogioco è un'altra cosa ed è davvero un'esperienza. Grazie Matteo. Grazie a tutti. Un mistero in 24 minuti. Noi siamo pronti a darvi 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Dovete risolvere il mistero. Può trattarsi come sempre di una notizia della settimana oppure di un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Per arrivare alla soluzione avrete gli indizi musicali. So che il primo indizio di oggi non è affatto facile, spero che però vi possa aiutare. Dovrebbe aiutarvi e anche molto. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24, e quindi ascoltiamo l'indizio. Eccoci qua, questo è il primo indizio. Il titolo è Secretly, ovvero segretamente. Gli Scancananzi sono loro a cantare. Andrea da Torino, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Andrea, ciao, allora ciao. Questo è il primo indizio, non so se l'avevi riconosciuto quando l'hai ascoltato prima, sì, nei giorni passati. Sì, l'avevo riconosciuto quando ho telefonato, perché sono state le 10:30 e potevo scegliere le due soluzioni. Cosa vuoi fare? Vuoi ascoltare un altro indizio o vuoi? No, basta questo. Ah, ti basta questo, bravo. Però non mi baso sul. Non dire, non aiutare troppo. Ok, va bene. Allora, spero sia così. Siccome la cantante si chiama Skin, giusto? È vero, sì, giusto. Poi si è messa anche da sola a cantare. E ho pensato che Skin significa pelle. Sì. In italiano. Sì. E quindi mi sono fatto tutto un ciocco mentale sul fatto che ultimamente l'ultima notizia è stata quella di Merkel, Sarkozy e Berlusconi. Sì. Ci sono? Sì. No? No, non lo so, ma sto ascoltando. E allora ho pensato antipatia pelle tra Berlusconi e la Merkel e mi è venuto in mente Skin. Ho esagerato, troppi giochi mentali. No, sai Andrea che cosa? Che io in quel caso avrei preso una canzone di Skin, visto che lei si è messa da sola. Non avrei fatto, non sarebbe stato così difficile. Sono stato per il pigro, perché era domenica mattina. Ma tu ti sei avvicinato però su una cosa, ma non la posso dire però. Ascolta fino alla fine la trasmissione. Chiaramente non è la risposta giusta. Guarda, di solito non lo diciamo mai subito, però lo dico. Però ascolta, perché poi magari ti morderai un po' le dita. Ciao, grazie. Ciao, ciao Andrea. Ciao. Ciao, andiamo avanti. Giovanna da Roma, buongiorno. Giovanna da Roma, buongiorno. Sì, vi ringrazio, chiedo scusa, però ho telefonato d'impulso, per cui in preda sia al raffreddore che all'ora legale. Comunque non ha importanza. Cosa facciamo? Ascoltiamo un secondo indizio, semplifichiamo le cose. Non lo so. No, ci proviamo. Tanto vado proprio alla cieca. Vai Giovanna, brava. E sono contento di salutare voi e tutta la, la rete perché siete meravigliosi, anche gli altri colleghi. Comunque, a parte questo, e anzi voglio dire, prima di dire l'indizio, però la butto lì, tanto se, visto che siete simpatici accettate di tutto, ecco. Però volevo dire un'altra cosa, dato che avete parlato del gioco, queste cose, sì. Sono una persona eminentemente ignorante, però mi ricordo che un professore di filosofia mi dette il titolo di un testo che si chiamava Il gioco come simbolo del mondo, che si trova raramente in Roma 3 all'università, di Eugenio Fink, ed è meraviglioso. Poi per chi è più bravo e può studiare, va da là. Comunque, e niente, la risposta, pensavo a quell'avvenimento americano di Obama, Italia-America, tutto qua. Grazie Giovanna, la risposta è a te, grazie a te, complimenti, buona domenica anche per la segnalazione, molto interessante. Marina, la provincia di Reggio Emilia. Ciao. Ciao Marina, buongiorno. Buongiorno. Ma c'era la nebbia stamattina lì, da quelle parti? Tantissima. Anche da voi, eh? No, perché mi sono svegliato tanta. Con quella. Vabbè, sì, ah, così, ce n'è sempre di nebbia qua. Allora, Marina, che cosa vuoi fare? Guarda, mi butto. Mi anche butto tu. Anch'io. Io penso che l'indizio primo è talmente difficile che poi in realtà non è così difficile, capirete poi, che tutti chiederanno un altro. No, nessuno per adesso l'ha fatto. Allora Marina, teniamo i 1000 euro, vai, vai, buttati. Dico il personaggio Lorenzo Pinismaghi. Grazie Marina. Ciao. Ciao, ciao, Enrico da Roma, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Allora Enrico, cosa vuoi fare? Sentiamo il secondo indizio. Eccoti, allora prima gli aggiornamenti sul traffico, eccoli qua. Un mistero in 24 minuti. C'è Enrico da Roma al telefono, pronto ad ascoltare il secondo indizio. Prigioniera non mi sento più, sorridente lentamente, da una scala buia vengo su, più su, più su, paura, più paura, una lunga notte non mi fa, ogni tanto quasi sento che mi sfiora la felicità, chissà, chissà, chissà, grazie a te. Eccolo qui, questo era il secondo indizio, l'hai riconosciuta, era Mina che cantava. Il titolo della canzone è La scala buia, ma tu devi pensare al ritornello, dice... Più leggera. Più... sì, così. Sì. A Roma non c'è la nebbia stamattina, ma io sono avvolto nella nebbia. Ma ti ho aiutato. Comunque... tanto, Enrico. Certo. Dunque, diciamo, Matteo Renzi e il movimento dei rottamatori, degli sfasciacarrotti. Il Big Bang. E senti, ma ha detto che non è un asino, perché quell'altro gli ha detto che non deve scalciare, vedi tu. Diciamo che irraglia forte. Grazie Enrico, ciao. Buona giornata. Ciao, grazie. Ilaria da Roma, buongiorno. Eccola qui, Ilaria è sparita. Claudio da Roma. Buongiorno. Claudio, ciao, buongiorno. Buongiorno. Io credo di aver... per la trasmissione. Grazie, col lavoro. Grazie, davvero. Io credo di aver aiutato molto, così Enrico, e spero di aver aiutato anche te. Non so se vuoi ascoltare un altro indizio. A prima canzone inglese, col discorso segretamente, avevo pensato a un qualcosa che è successo in Italia, cognome della persona inglese. È stato in mezzo a dei segreti, hanno indagato, insomma, di un giudice. Però poi è leggera, ma ha messo in difficoltà, perché lui non è leggera. Claudio, cosa vogliamo fare? Vogliamo sentire il terzo indizio? Magari. Terzo indizio, 300 euro. Puoi pensarci bene. Non avere fretta. C'è tanto tempo ancora. Il tempo di una sigaretta. Guarda pigramente le spine colorate, lo vedi, fuma piccole boccate. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Povero Ornella Manone, sta così troncata, ma... Però non ho il titolo della canzone. Te lo dico io, perché si capiva già. La sigaretta si intitola. Adesso la sigaretta. Sigaretta leggera, segretamente. Non è proprio quello l'indizio, ma comunque. Sono gli Skunk Anansie che cantano Secretly. Ho capito. comunque mi butto. La lettera di Berlusconi alla UE. Grazie Claudio, buona giornata. Aspettando. Ciao, grazie. Raffaello da Taranto. Pronto, Raffaello? Sì, pronto. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, Raffaello. Grazie davvero. Allora, avevo le idee chiare fino al secondo indizio, sinceramente. Ora con questa sigaretta... Allora vuol dire che non erano chiare, te lo dico subito, perché questo terzo indizio davvero serve. Davvero serve. Eh sì, sigaretta leggera, ha già messo insieme le cose, allora, Claudio, prima. Vuoi un quarto indizio? Senti, metto, io rimango fedele a quello che avevo pensato, sì, prima. Penso alla nascita dell'erede di Sarkozy e della Carla Bruni, insomma, che è stato portato segretamente. Forse per quello che rideva, perché era da poco papà. Grazie Raffaello, ciao. Perfetto, buona ciao, giornata. Ciao. Ciao. Gemma da Vicenza, buongiorno Gemma. Buongiorno, buongiorno. Grazie per la compagnia che state facendo a me e mio marito, siamo in viaggio e vi ascoltiamo volentieri. Speriamo di darti anche i 300 euro che sono qua sul tavolo. Ma non abbiamo seguito bene, quindi direi, mio marito mi suggerisce. Aspetta, vuoi un altro indizio o vuoi dare la risposta? Cosa facciamo, Marco? Diamo la risposta? La lettera anonima mandata per Berlusconi? Grazie Gemma, ciao, buona ciao, giornata, grazie, ciao, ciao. Ciao. Sentiamo i tre indizi perché avevamo dovuto sentirli prima della risposta di Gemma, sentiamoli adesso. Erano gli Scancanansi con Secretly, poi la Scala Buia, Mina, anche se vi ho detto che il ritornello era la forza dell'indizio, quindi questo leggera, più leggera, una sigaretta, Ornella Vanoni, Luigi da Como. Luigi. Sì, buongiorno. Ciao Luigi. Ciao, vogliamo... complimenti a te e alle tue amiche simpaticissime. Grazie. Allora, cosa vogliamo fare? Diciamo che i due indizi successivi, dunque ero sicuro del primo delle conclusioni del primo intervento e pensavo piuttosto alla tassazione sul lifting proposta da un paese straniero che non ricordo più quale. Ma tu vuoi dare quella risposta o vuoi... Quella è la tua risposta? È la mia risposta, anche perché gli altri indizi mi hanno veramente fuorviato e non saprei cosa fare. Che rabbia. Grazie Luigi, ciao. Grazie, ciao. Ciao, buona domenica. Ilaria da Roma? Ilaria, sì, ciao, ecco, buongiorno. Ciao, sei tornata. Siamo anche noi in viaggio. Oh, bene, per questo era caduta la linea prima. Allora, Ilaria, cerchiamo di mettere le cose insieme. Sì, illuminante è stata la terza canzone, per cui vorrei provare dicendo l'invenzione di una nuova sigaretta rivoluzionaria, la cui notizia è stata data e mi sembra riduca del 90% il contenuto di nicotina. Sì, è senza nicotina, esatto, è vero, una notizia di proprio ieri o l'altro ieri, esatto, sì. Ilaria. Chissà, ciao, buona giornata, ciao. Ok, ciao, grazie. Emanuela dalla provincia di Bergamo. Ah, buongiorno. Io ho pensato, vabbè che siccome sono in viaggio mi hanno impedito l'ascolto di certi tratti. Allora, io ho pensato all'accordo Bossi e Berlusconi quando si è addormentato, quando sbadigliava. Scusate, rido perché non so se vedete gli sgommati, però se avete l'occasione di vederli anche su internet, digitando sgommati troverete il sito. Adesso Berlusconi è sempre rappresentato con un Bossi dormiente, col cappello da vichingo, con l'elmetto da vichingo in testa, fa molto ridere, si riferisce proprio a questo. Grazie Emanuela, grazie, ma purtroppo non è la risposta giusta. Va bene, mi dispiace, grazie, buon viaggio. E non riusciamo a sentire gli altri perché credo che sia scaduto assolutamente il tempo. Eccolo qua. Immaginavo, ma che rabbia, niente, io mi ritiro, ciao a tutti. Ah, devo dare la risposta. Allora, il primo indizio, Scancanansi, perché skunk è la nuova erba, quella che si fuma in Olanda e che ha un tasso di THC molto maggiore rispetto all'erba di 20 o 30 anni fa e si chiama skunk, proprio come gli Scancanansi. La risposta era il fatto che Amsterdam vuole inserire l'erba nell'elenco delle droghe pesanti. Quindi più leggera non è assolutamente, ma anzi viene considerata una droga pesante proprio perché il THC è molto più alto rispetto a quanto era tanti anni prima. Questa era la risposta. Mi dispiace ovviamente per che non siete riusciti a indovinare. Speriamo di sì, la settimana prossima voglio regalarvi 1.000 euro. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, all'assistenza di Stefania Tagliaferri, Paolo Corleone in regia, ovviamente a voi. Ci sentiamo la settimana prossima alle 10 puntuali nel Riposo del Guerriero. Buona settimana nuova da Stefano Gallarini.